Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Il crollo del prezzo del petrolio in atto dalla fine del 2014, ora accelerato anche dal ritorno dell'Iran sulla scena internazionale, sta contribuendo alla brusca frenata dei listini azionari mondiali. Secondo le prime stime, ora che un barile di petrolio si attesta al di sotto dei $30 contro i $108 del 2013, la capitalizzazione delle borse mondiali vale 5.000 miliardi in meno rispetto alla situazione di inizio anno. Ma a preoccupare non è solo l'effetto sulle borse. Il rischio è che la discesa a ruota libera del prezzo del greggio contribuisca a frenare la fragile ripresa in atto in Europa. Eppure è indubbio il vantaggio sul costo della bolletta petrolifera, soprattutto per quei paesi come l'Italia, fortemente dipendenti dalle importazioni di greggio. Il problema è che il crollo dell'oro nero può far precipitare ancor più nella crisi i paesi emergenti, tra cui il Brasile, e rendere ancora più incerto lo scenario geopolitico che dalla Russia passa al Medio Oriente. Strani corsi e ricorsi della storia che ripropongono scenari a volte rovesciati, come quelli che si verificarono negli anni 70 con le due crisi petrolifere del 1973 e del 1979, in cui a determinare i destini dell'economia mondiale furono i repentini rialzi del prezzo del greggio. Il primo shock petrolifero fu la conseguenza di uno dei passaggi più duri del conflitto tra arabi e israeliani. Il detonatore esplose il 6 ottobre 1973. Giorno della festa ebraica dello Yom Kippur, quando le truppe egiziane attaccarono quelle israeliane, di concerto con le truppe siriane che attaccarono dalle alture del Golan. Era all'inizio della guerra del Kippur. La guerra finì dopo una ventina di giorni con la proclamazione di un cessate il fuoco tra le due parti. Contemporaneamente all'inizio dei combattimenti, Egitto e Siria, sostenuti dalla quasi totalità dei paesi arabi, raddoppiarono il prezzo del petrolio e diminuirono del 25% le esportazioni, per ammonire l'Occidente a non appoggiare Israele, appoggiato dagli Stati Uniti. L'aumento vertiginoso del prezzo del greggio ebbe un impatto immediato sull'economia dei paesi occidentali, che furono costretti a correre ai ripari, varando provvedimenti restrittivi per ridurre il consumo di petrolio. Il secondo shock petrolifero risale al 1979, e fu determinato dalla rivoluzione iraniana e dalla guerra tra Iran e Iraq. Il prezzo del greggio salì a $80 al barile, equivalenti a circa $100 di oggi, creando gravi difficoltà di approvvigionamento energetico. Rispetto al 1978, il prezzo del greggio in dollari aumentò di circa il 150%. Se questo è quel che accadde nei due shock petroliferi del 1973 e 1979, oggi la situazione è esattamente ribaltata, con rischi evidenti, come segnala questo articolo apparso lo scorso 15 gennaio sul britannico The Guardian. La crisi petrolifera degli anni 70 ha rimodellato il panorama mondiale e ha dato una nuova rilevanza al Medio Oriente. Quando i prezzi sono crollati alla metà degli anni Ottanta, la fine dell'Unione Sovietica è stata accelerata dal collasso delle sue esportazioni. L'invasione del Kuwait da parte di Saddam Hussein nel 1990 nasceva in parte dalla volontà di conquistare nuovi territori in un momento di ristrettezze finanziarie. In Algeria, altro paese profondamente dipendente dagli introiti del petrolio, lo stesso calo del prezzo, fino a meno di $10 al barile, ha innescato una vittoria elettorale degli islamisti, un colpo di Stato e poi la guerra civile. Anche se le democrazie liberali dell'Occidente hanno beneficiato del crollo del blocco sovietico, il calo dei prezzi non ha certo portato pace e stabilità nel mondo arabo e musulmano. L'Arabia Saudita ha orchestrato la riduzione del costo del barile nel tentativo di indebolire l'Iran. In generale, possiamo dire che il crollo del prezzo del petrolio ha ridotto la speranza che le potenze emergenti possano continuare la loro crescita modernizzandosi e contribuendo a garantire la stabilità internazionale. Anche il Brasile, un tempo descritto come il campione del sud del mondo, oggi barcolla. Il calo del prezzo del petrolio non aiuterà nemmeno il nuovo governo della Nigeria, primo produttore di petrolio in Africa, in un momento in cui le reti jihadiste si stanno diffondendo nella regione e oltre. E danneggia la Russia, già alle prese con le conseguenze delle sanzioni e del calo dei prezzi, in un'economia che ha bisogno di un petrolio ad almeno $100 al barile. L'area dove le conseguenze geopolitiche del calo del prezzo del petrolio sono più imprevedibili resta il Medio Oriente. Tu lo chiami solo un vecchio sporco imbroglio, ma è uno sbaglio, è petrolio. Troppo furbo per non essere sincero, ma è davvero oro nero. Io perché non dovrei dirti tutto quello che sento nel cuore? Buonasera, professor Davide Tabarelli, presidente di Nomisa Energia, che ci aiuta a capire un po' meglio questa questione del calo del prezzo del greggio. Buonasera, ben arrivato. Buonasera, grazie. Allora, rispetto alla situazione di 40 anni fa, il mondo è cambiato profondamente, ma alla base di questo crollo c'è l'aumento dell'offerta e la debolezza della domanda, in qualche modo. Sì, più forte aumento della produzione che non si riesce a contenere, perché c'è una competizione a favore dei consumatori tra i due dei principali produttori, il primo l'Arabia Saudita e l'altro l'Iran, che sta tornando e un giorno diventerà il secondo produttore, adesso è molto indietro. Poi c'è il rallentamento della domanda, ma un rallentamento tutto sommato non eclatante, perché l'anno scorso si è chiuso con un più 1,6 milioni di barili al giorno, che è una crescita forte, un nuovo massimo di 95 milioni di barili al giorno. Quest'anno dovrebbe crescere un po' meno, più 1,2. Ricordo che l'Italia consuma 1 milione di barili al giorno ed è uno dei principali consumatori mondiali, pertanto c'è la domanda che continua a crescere. In questo momento, per particolari ragioni politiche, c'è stato un forte balzo dell'offerta più della domanda. Ma è fondato questo allarme che il crollo del prezzo del petrolio possa determinare una frenata dell'economia europea, professore? Ma ovviamente il dio mercato ha sempre ragione. Se accadono queste cadute, ci sono degli elementi che sono a favore di questa visione, tuttavia secondo me è molto esagerato, perché ci sono tanti altri fattori positivi. L'energia continua a crescere, la domanda nel mondo, il petrolio è la prima fonte a copertura della domanda globale con circa il 32% del totale di questi 14 miliardi di tonnellate equivalenti di petrolio. E cresce la domanda, i prezzi sono crollati, noi stimiamo che rispetto a 2 anni fa un calo dei prezzi di $80 significa 2,5-2,8% del PIL mondiale. È tutta ricchezza che viene trasferita nelle tasche dei consumatori, in particolare di chi non esporta, che sono i paesi OCSE, cioè l'Europa, in parte anche gli Stati Uniti, anche se negli Stati Uniti c'è la produzione interna, poi il Giappone. Cioè la crescita mondiale ha bisogno di più forza dell'economia, dell'espansione dell'economia industrializzata, che in questi anni è stata debole, e questa è una bella iniezione di liquidità, speriamo che funzioni. Una domanda che spesso ci viene rivolta dai nostri ascoltatori è questa: il beneficio in termini di minor prezzo del carburante si fatica a vedere nonostante questo crollo del prezzo del petrolio? Cos'è, colpa delle accise? Le accise in buona parte sono responsabili, perché contano per circa il 70% del prezzo finale in Europa, in particolare in Italia, che è uno dei paesi con la più alta tassazione al mondo su questi due prodotti, gasolio e benzina, nonostante che siamo il paese più motorizzato in assoluto al mondo, tenendo conto anche delle due ruote. E poi c'è il fatto che i prezzi dei prodotti petroliferi hanno dinamiche un po' proprie, scollegate dal greggio. I prezzi dei prodotti in questo periodo sono scesi più lentamente della materia prima, ma stanno scendendo. Sta di fatto che i consumatori si accorgono sempre degli aumenti, un po' meno delle riduzioni. Attualmente in questo momento ci sono dei prezzi molto molto bassi, che sono intorno a 1,15 per il gasolio e 1,25, 1,30 per la benzina, sono 50 centesimi in meno rispetto ai picchi del 2012. Insomma, professor Tabarelli, non si può dire che stavamo meglio quando stavamo peggio, cioè quando l'inflazione era più alta, il prezzo del greggio superava abbondantemente i $100. No, non possiamo, perché giustamente voi avete ricordato i grandi shock petroliferi degli anni 70 che hanno causato recessione, quello che c'è stato dal 2006, da forte crescita verso i 150-147 del luglio 2008, poi sono stabilizzate negli ultimi 4 anni intorno a 110. È stato un aumento non ha causato shock, ma sta di fatto che il petrolio è sempre una delle principali materie prime, uno dei fattori produttivi importanti delle economie. Il 97% della mobilità nel mondo si fa con derivati del petrolio, pertanto la notizia non capisco che crea grande instabilità nella finanza, ma nell'economia reale è estremamente positiva. Un'ultima domanda, professore, secondo lei è possibile e prevedibile uno scenario che porti il prezzo del barile a $20 nelle prossime settimane? Certamente sì, anche se occorre sempre riflettere sul fatto che l'unica cosa certa in questa lunga storia del mercato petrolifero, che vanta oltre 150 anni, è l'instabilità. Le previsioni non ci azzeccano mai. Potrebbe essere che la cosa più probabile è che continui questo scontro fra Iran e Arabia Saudita e che perciò ci voglia ancora qualche settimana prima che si mettano a un tavolo e decidere come contenere la produzione, dopodiché i prezzi ritorneranno a salire. Bene, professore, molte grazie e grazie ancora per essere stato con noi questa sera. Grazie a voi.